storiacce di Raffaella Calandra. Appena sceso dalla barca, com'è andata questa mattinata di pesca? Come molte altre volte, nel senso che non abbiamo preso assolutamente niente. Una volta questo era il paradiso dei pescatori, prendere neanche un pesce era una cosa praticamente impossibile. Il sole d'autunno filtra tra i rami e brilla l'acqua azzurra del Ticino. Si possono quasi vedere ad occhio nudo i fondali in una giornata che sembra avere tutto per farti dimenticare il trambusto della città. Eppure il fiume azzurro è malato e a misurarne la febbre sono gli ami vuoti dei pescatori e gli alberi pieni invece di cormorani. Un'ombra si allunga sull'acqua quando fitti stormi di uccelli neri si mettono in volo. Arrivati da altre latitudini hanno contribuito infatti ad alterare l'equilibrio di uno dei fiumi più pescosi insieme ai siluri. Sono alcuni degli animali clandestini, per dirla col titolo di un libro di qualche tempo fa, che creano non pochi danni e problemi all'ecosistema quando finiscono fuori controllo, come le nutrie che erodono gli argini dei fiumi o i cinghiali che attaccano anche le persone o ancora i piccioni. E allora da qui parte questa puntata di Storiacce alla caccia degli animali clandestini. Sono Giorgio Introini, sono un socio della riserva di pesca della Zelata sul Ticino e sono anche un grande amante del fiume, oltre che un ascoltatore e un estimatore della trasmissione Storiacce. E a proposito di storiacce, volevo segnalare quella che secondo me è una storiaccia e che riguarda l'equilibrio della flora e della fauna del Ticino, messo in discussione dalla presenza soprattutto dei cormorani, e mi piacerebbe che questa storiaccia venisse ripresa dalla trasmissione. Partito da questa segnalazione arrivata a storiacce@radio24.it, perché come sapete ora anche sul sito abbiamo una pagina aperta alle vostre segnalazioni, quindi se anche voi avete vicende da sottoporci o richieste da farci, scriveteci. In questo caso dunque la segnalazione di Giorgio ci ha portato fin qui lungo il fiume Ticino, a Zelata, riserva, ci ha scritto, che aveva scoperto con l'ex amministratore delegato di Mediobanca Vincenzo Maranghi, che qui amava rifugiarsi anche nei giorni convulsi dell'uscita da Piazzetta Cuccia. Tutto ti parla effettivamente di serenità in questo scorcio d'altri tempi a pochi chilometri da Milano, ma a turbare questa serenità il verso improvviso di stormi di cormorani, belli sì a vedersi, ma che a chi conosce il fiume parlano invece di un cambiamento profondo che ha fatto saltare i vecchi equilibri della specie e quindi a catena dell'intero ecosistema. I cormorani ora sono i padroni, racconta Sergio Pivato, presidente dell'associazione La Zelata, e quando ne parla la sua fronte si aggrotta. Questa era una giornata, tecnicamente parlando, ideale per la pesca. L'acqua era pulita, il cielo era bello, piacevolissimo andare sul fiume. Siete preoccupati dal fatto che questa, che era una zona ad alta pescosità, adesso c'è un rischio SOS, il Ticino senza pesci? Il rischio maggiore è quello che nessuno si preoccupi di quello che sta avvenendo e quindi di trasformare una tendenza che di per sé potrebbe essere invertita in qualcosa di definitivo. Che cosa sta avvenendo qui in questa zona che è parco naturale, il parco naturale del Ticino, nota anche appunto per essere una zona di alta pescosità? Ci preoccupa una qualità delle acque che come in altri posti, forse meno che in altri, è soggetta in periodi particolarmente piovosi a scarichi non controllati. Poi sono arrivati i cormorani, che sono diventati un po' il nemico, sì, di questa zona. A me spiace, perché il simbolo del cormorano è stato uno dei più commoventi che sono stati utilizzati anche per muovere l'opinione pubblica nell'occasione della guerra del Golfo. È quel povero cormorano con le ali spiegate che grondavano petrolio. Lì il cormorano era un'immagine di un animale da difendere, qui invece il cormorano è qualcosa che sta aggredendo l'equilibrio del Ticino. Perché? Perché è un tipo di animale, come lo è il siluro, che è l'altro nemico, diciamo, della nostra fauna ittica. Gli aironi, l'airone cenerino, l'airone rosso, l'airone bianco, la garzetta, lo stesso martin pescatore, che si nutrono di pesci, trovano oggi un ambiente spopolato dal cormorano, che è un animale alloctono che non c'era prima. Da dove arriva il cormorano? Perché adesso ce ne sono così tanti qui? Probabilmente perché hanno trovato nelle zone di provenienza, che sono di solito i delta dei grandi fiumi, dal Rodano fino al Po, eccetera, hanno trovato più conveniente e più pescoso rientrare in qualche modo nei fiumi più puliti. E mentre nel mare il cormorano ha degli antagonisti come i gabbiani o l'albatros addirittura, qui nel fiume trova come una piccola pescheria. Però una volta che è arrivato ne è diventato il conquistatore, il padrone assoluto, giusto? Non ha assolutamente antagonisti, nuota più veloce di qualunque pesce, anche controcorrente, mangia dal mezzo chilo agli 8 etti di pesce al giorno, mangia i pesci piccolissimo come l'alborella, mangia mediamente pesci sul mezzo chilo e uccide pesci più grandi di lui. Studi, censimenti, dibattiti e riflessioni da tempo ormai vanno avanti, tutti al capezzale del grande fiume, ma nessun provvedimento qui è stato ancora preso per cercare di ritrovare quell'equilibrio messo in discussione da animali arrivati dal nord Europa che divorano i pesci e scacciano le cicogne dai loro nidi. Altrove, come in Puglia, dove hanno creato non pochi problemi per l'agricoltura, è partito invece un piano di contenimento, ma non qui, dove comunque, ci dicono dal Parco del Ticino, si contano almeno 1.300-1.600 esemplari nei momenti di picco. Andrea Bellani, responsabile della fauna del parco. Fra i 1.300 e i 1.600 animali sono presenti nei picchi massimi. E voi avete registrato un aumento negli ultimi tempi? Più o meno. Con oscillazioni di qualche centinaio di individui, è una presenza che si è mantenuta costante. All'inizio degli anni 60-70 il cormorano era una specie praticamente sull'orlo dell'estinzione. Misure di protezione adottate specialmente in Nord Europa hanno permesso il riprendere di questa specie. Sul finire degli anni 80 hanno cominciato a farsi vedere anche sul fiume. C'è stato un trend di crescita. È un elemento di preoccupazione anche per il parco. Il Parco del Ticino ha un patrimonio faunistico eccezionale. Ci sono alcuni nei. Uno di questi è riferito alla fauna ittica. La fauna ittica del Ticino, grosso modo, è composta da oltre 50 specie. Di queste 50 specie, almeno un quarto sono alloctone. E fra queste ci sono alcune specie particolarmente aggressivi, un esempio su tutti, il siluro. Il cormorano sicuramente incide sulla fauna ittica. Attribuire esclusivamente al cormorano queste diminuzioni credo che sia sbagliato. Quindi cormorano più siluro, certo, entrambi. Cormorano più siluro, certo. Quello che voglio capire, in altre zone d'Italia dove pure c'è stato questo problema, ci sono state delle soluzioni di vario genere che sono state prese anche con, ad esempio, degli abbattimenti selettivi dei cormorani. Perché non si è scelta anche questo tipo di strada che ad esempio in Puglia era stata percorsa? Nel confronto dei cormorani sono essenzialmente interventi dissuasivi. Sono dissuasivi uccidendo alcuni esemplari in modo tale che gli altri non vanno? Nel senso di abbattimento di alcuni esemplari, vengono abbattute frazioni della popolazione con intenti dissuasivi, cioè di farli allontanare da una determinata zona. E questo perché sul Ticino non è stato fatto? Noi vogliamo capire bene quello che è il ruolo del cormorano nei confronti della fauna ittica. In Puglia, ad esempio, hanno preso questa decisione anche perché aveva avuto gravi danni sull'economia locale. Normalmente vengono attivate queste cose a fronte di danni rilevabili in attività economiche, appunto. Quindi non ci sono in valutazione tipi di intervento, qualche tipo di intervento? Per il momento direi di no, che non ci sono allo studio interventi nel senso che si diceva prima. Questo non esclude che in un prossimo futuro si faccia qualcosa in questo senso. E anche nei confronti del siluro ci sono provvedimenti allo studio oppure no? Nei confronti del siluro fino all'anno scorso si facevano attività di contenimento con il prelievo di siluri, verrà ripreso il prossimo anno. Poi anche qui ci sono problemi di stanziamenti, di personale, eccetera. poveri cormorani, sono degli uccelli anche molto belli, ma lo sono anche il martin pescatore con le sue piume azzurre o le cicogne e gli altri spodestati dagli ultimi arrivati. Ma qual è il nodo della questione? In un'area protetta si possono abbattere degli esemplari se questi mettono a rischio l'ecosistema? Un tema questo che si pone anche per altri animali, moltiplicatisi in modo esponenziale tra danni e timori, tipo i cinghiali. E questa è la posizione di una delle principali anime dell'ambientalismo, come Lega Ambiente, Nino Morabito, responsabile della fauna. La nostra posizione ovviamente parte dall'esigenza di tutelare la natura e la biodiversità in Italia, quindi la prima richiesta è quella di un'attiva azione del nostro paese nelle sue varie articolazioni per la conservazione e la tutela della natura. Ci sono anche situazioni in cui quasi sempre per colpa e responsabilità dell'agire umano si sono creati degli squilibri, delle situazioni di, diciamo, molto di minaccia per habitat o specie particolarmente vulnerabili, e in quei casi sulle basi delle migliori conoscenze scientifiche chiediamo comunque di intervenire. Quali sono gli strumenti quindi? Sono ovviamente molte azioni da fare prima di arrivare a misure di prevenzione, dissuasione. Anche il piano di controllo può divenire uno strumento ineludibile laddove non c'è una soluzione. Facciamo il caso dello scoiattolo grigio, che è palesemente noto porta purtroppo all'estinzione lo scoiattolo comune europeo, che senza intervenire assistiamo praticamente all'estinzione di una specie animale. Non sono dunque contrari agli abbattimenti tout court come principio, ma lo considerano, diciamo così, l'estrema ratio. Ma il tema è come stabilire il momento giusto per un intervento. Quanto più tempo passa, più l'equilibrio del fiume con la sua diversità viene messo in pericolo, anche se da un altro animale, sia pur clandestino. La febbre del fiume però è più silenziosa dell'aumento incontrollato dei cinghiali che hanno attaccato e a volte anche ucciso uomini, oppure dell'aumento delle nutrie che scavano tunnel negli argini dei torrenti. E da qui allora ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Storiacce. Organismi non umani senza permesso di soggiorno. Li chiama animali clandestini Marco Di Domenico nel suo saggio per Bollati Boringhieri di qualche tempo fa. Quegli animali, ma anche le piante, arrivati da molto lontano per varie ragioni, entrati nel nostro habitat e poi diventati invece protagonisti insieme all'azione degli uomini, a volte avventata, altre limitata, protagonisti di disastri o cambiamenti drammatici e duraturi, anzi ormai irreversibili e definitivi, scrive questo biologo. Il tema è serio, come ben sa chi con la natura lavora. E a volte non solo le violazioni o eccessivi interventi causano sciagure, ma anche la mancanza di azione può avere dei danni seri, anche se lenti. È un rischio che esiste anche nel Ticino, dove a differenza che altrove non si è ancora intervenuti per contenere la diffusione di animali venuti da lontano come i cormorani. Di sicuro Sergio Pivato dell'associazione La Zelata di questo è preoccupato. I diversi piani di abbattimento che sono stati eseguiti in Italia da alcuni anni, la regione Sardegna, l'Oristanese per esempio. Piani di abbattimento dei cormorani. Piani di abbattimento dei cormorani. Bisognerebbe fare un abbattimento selettivo. Bisogna sparare a un certo numero di questi. Questi animali si appollaiano sugli alberi. Durante la notte hanno delle postazioni fisse da cui controllano tutto lo specchio d'acqua sottostante. Se lei ne abbatte due o tre di queste 100 o 200 che ci sono su un albero o su due o tre alberi, e praticamente fa da dissuasore di tutti gli altri. Lo stesso esperimento è stato fatto con successo dal lago di Como, dove distruggevano le alborelle, dal Trentino Alto Adige Friuli, dove distruggevano gli allevamenti di trote salmonate, in Puglia. Perché non si procede anche qui nel Ticino all'abbattimento controllato dei cormorani, visto che comunque intorno anche alla pescosità del Ticino si regge anche un po' l'economia della zona? Io penso che sia, come al solito, un problema di burocrazie contrapposte e in qualche modo di veti perduranti di certa parte dell'ambientalismo. I vari progetti di reintroduzione a trota marmorata eccetera vengono compromessi automaticamente se non si dà preventivamente corso a delle misure di contenimento dei nemici naturali, in primis il siluro, ma io ritengo ancora di più i cormorani. Abbiamo sentito già nella prima parte, il parco del Ticino non esclude in realtà abbattimenti controllati, ma per ora sceglie di andare avanti col censimento e con lo studio dei cormorani. Non sono solo questi uccelli arrivati dal nord Europa ad aver alterato i nostri ecosistemi. Ci sono pure le nutrie che scavano gallerie lungo gli argini dei fiumi, come ci si ricorda spesso dopo le alluvioni. O ci sono gli insetti che ne scacciano via altri, importanti però per le coltivazioni. E dentro queste storie c'è sempre un po' di tutto. La mano dell'uomo, la devastazione di un territorio, lo stravolgimento di un sistema, e che sia ecologico o economico, entrambi stavolta più che mai non fa nessuna differenza. I casi però diventano allarmi solo quando i cambiamenti non sono silenziosi e quando gli animali finiscono fuori controllo e diventano capaci, casomai, anche di uccidere. Sono troppi, qualcuno li ha avvistati anche alle periferie delle città, pericolosi se in branco, una sciagura per terreni e coltivazioni o per automobilisti di passaggio. I cinghiali hanno ormai invaso il Parco Nazionale dell'Alta Murgia e la loro carne va a ruba. Stanno proprio in mezzo alla gente che qua c'è il parco. L'ordine del giorno reca l'audizione formale dei rappresentanti dell'organizzazione venatoria su interventi in materia di danni all'agricoltura provocati dalla proliferazione dei cinghiali su questioni di interesse del settore dell'attività venatoria. Moltiplicatisi in modo esponenziale, tanto da entrare anche nei centri abitati, i cinghiali sono anche gli animali più dannosi per l'agricoltura, e solo la Coldiretti Lombardia stima i danni provocati da questi animali selvatici fuori controllo in 5.000 euro al giorno. Non si può più sottovalutare la questione, si infervora il presidente Ettore Prandini. La situazione deriva da una cattiva gestione che c'è stata negli ultimi anni, oltre ai cormorani. Oggi il problema si estende ad altre specie animali, tipo le nutrie, i cinghiali, i piccioni, i cervi e i corvi, che rispetto a qualche anno fa, appunto, quando c'era un'azione di contenimento, purtroppo oggi, non essendoci più, queste ovviamente invadono e creano danni di carattere economico alle imprese agricole, ma non solo alle imprese agricole, perché poi a questi si affiancano, ad esempio, nella sola Lombardia nell'ultimo anno circa 500 incidenti stradali che si sono verificati proprio per la presenza di queste tipologie di animali. Esiste una stima, diciamo, dei danni che questo tipo di animali, mettendoli tutti insieme, ha provocato all'agricoltura? Se parliamo di Lombardia, stiamo ragionando su una cifra che è vicino oggi ai 350.000 euro di danno reale già conteggiato sulle sole imprese agricole. La questione è anche di sicurezza per quanto riguarda i cittadini stessi. Purtroppo nell'ultimo anno c'è stato anche un episodio di un incidente mortale, una persona che camminava nella sua proprietà che è stata aggredita da dei cinghiali. Dovrebbe portare le nostre istituzioni a porre maggiore attenzione proprio per quanto riguarda il contenimento di queste tipologie di animali, che ad esempio, tra l'altro, noi in natura alcune di queste nemmeno le avevamo, perché se pensiamo alle nutrie è un animale che abbiamo importato, creando anche una serie poi di danni collaterali per quanto riguarda la tenuta degli argini, dei fiumi e la sicurezza per quanto riguarda la viabilità, perché questi animali poi vanno a scavare dei tunnel sotto le strade e in certi casi portano anche al cedimento delle stesse. Sarebbe necessario un più energico piano di intervento? Se non vengono contenuti, questi rischiano di recare dei danni. Contenimento vuol dire soprattutto abbattimento di alcuni esemplari. Quali sono i principali problemi, i principali scogli? Sono le associazioni a difesa degli animali? Da un lato sì, e dall'altro anche un po' di ignoranza da parte delle nostre istituzioni, perché se noi andiamo a equiparare la possibilità del contenimento della nutria legata alla stagione della caccia, vuol dire che non conosciamo il problema. La nutria va contenuta durante tutto l'arco dell'anno. La nutria è presente in modo continuativo, lo stesso vale per il cinghiale. Gestire la specie per contenere i danni, si intitola così il dossier di Legambiente dedicato proprio ai cinghiali e agli altri animali fuori controllo. Nino Morabito, responsabile per la fauna. Prima di arrivare a fare il piano di controllo occorre mettersi delle regole chiare. Noi chiediamo che venga messo al più presto il divieto assoluto di immissione di cinghiali in tutta Italia, con una sanzione chiara per chiunque dovesse, diciamo, disattendere questo divieto. Spesso non è la specie che crea un problema, ma la specie si concentra in alcune aree dove magari ci sono maggiori disponibilità di risorse alimentari. E allora in quei luoghi va fatto un intervento, si può e si deve anche intervenire dove serve. Quindi intervenire solo in alcuni casi estremi, devo aver fatto altro, mi sembra di capire, giusto? Intervenire con le migliori conoscenze e in maniera puntuale, chirurgica, tanto vale per il corpo cormorano, tanto vale per il cinghiale o vale per il lupo. Cioè, se non si mettono in azioni, prima in campo delle azioni di prevenzione, di riduzione del possibile conflitto, secondo, non si valuta esattamente cosa e quali animali producono quell'impatto, si rischia di fare un intervento generalizzato che non produce assolutamente il risultato sperato. Sono solo le specie alloctone invasive che sono state immesse involontariamente o deliberatamente, in alcuni casi purtroppo, che hanno bisogno di un rigido e forte controllo ovunque vengono individuate in maniera molto veloce, perché questo la scienza ormai a livello internazionale lo ha ampiamente dimostrato, è stata la prima causa di estinzione in moltissime piccole isole a dispetto di altre specie animali che erano fondamentali e vitali in quegli ecosistemi naturali. Di uccelli insidiosi è pieno anche il mito antico. Linea allora a Giorgio Giranò, professore all'Università di Trento, e alle nostre mitiche storiacce. Mitiche storiacce. Le creature del cielo hanno sempre avuto un fascino ambiguo, hanno suscitato ammirazione ma anche paura. Da un lato c'è il sogno del volo, c'è una bellissima commedia di Aristofane che si chiama Gli uccelli, dove si immagina che il regno dell'universo possa essere donato alla stirpe degli uccelli e che tutti gli uomini possano avere in dono delle ali. Però anche nello stesso mito antico i demoni della morte erano alati, pensate alle arpie, creature terribili e distruttive, e questa suggestione resta anche nei tempi moderni, pensate solo alla fantasia di un film come Gli uccelli di Hitchcock. È proprio la storia di Hitchcock, dove gli uccelli si ribellano contro l'umanità e diventano animali pericolosi che assaltano gli uomini, ha un precedente mitologico. C'è una fatica di Ercole, una delle 12 fatiche del grande eroe mitico, in cui Ercole si trova a dover affrontare gli uccelli di un lago che si trova a Stinfalo, nel Peloponneso. Erano così violenti che riuscivano addirittura a bucare e a distruggere le armature degli uomini, devastavano i campi, portavano la morte e poi si nascondevano in foreste impenetrabili. Solo Ercole riesce a sconfiggerli, con dei sonagli di bronzo li fa volare e poi uccide questi uccelli mitologici assassini con le sue frecce. Nella mitologia greca Ercole è l'eroe civilizzatore, è colui che là dove c'è solo la vita selvaggia e disumana porta la civiltà, porta l'umanità. Però anche i greci erano consapevoli, e forse dobbiamo ricordarcelo anche noi, che la vittoria della cultura sulla vita selvaggia è sempre una vittoria precaria e non necessariamente irreversibile. Grazie dunque a Giorgio Giranò. Questa puntata di Storiacce, come avete sentito, è partita da una segnalazione di un nostro ascoltatore. E se avete anche voi storie di ogni genere che volete segnalarci, o se volete dirci quali storiacce vorreste ascoltare, scriveteci a storiacce@radio24.it. Ora anche sul sito di Radio 24 c'è una pagina aperta per le vostre storiacce, vi aspetto. Ma mi trovate anche sul blog Storiacce e sulla pagina Facebook. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Questa, come tutte le altre puntate, è riascoltabile dal sito radio24.it. Ciao a tutti, da Raffaella Calandra.